some explanation for that. We have time. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger. We know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, hollow. That's what the hell is that? Go tango. Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Who's communication? Bravo tango. Bravo tango. Go the other way. Va bene. Buonasera esseri stellari, siete all'ascolto di Lezioni Universali di Esistenza su Radio Wombat, 13:59 AM, radiowombat.net, come sapete benissimo visto che ci state ascoltando. Allora, prometto, io sono Mario e annuncio, sarà una puntata fantastica. Perché? Perché? Perché non c'è oggi con me un solo maestro, ovvero il maestro Tani. Abbiamo ben due maestri oggi qui in radio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Caro maestro Tani, buonasera. Buonasera. Il suo nome d'arte potrà ricordare ad alcuni un passato musicale tutto italiano. E sto parlando della mitica doppia decade anni 60-70 del Novecento. Parliamo del maestro Ricky Gianco. Buonasera maestro, buonasera, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, io preso dall'emozione ho dimenticato a casa il riassunto. Sì, è successo. Non ce l'ho e quindi non lo posso mandare, lo metto nella prossima puntata oppure nella potrei tentare un riassunto improvvisato live. Di due puntate fa, quando parlavamo, era stata una puntata bellissima, eravamo col DUSA, col Dipartimento di Ufologia e Scienze Alienistiche. Stavamo parlando del professor Biglino, sì. Una puntata di cui, caro maestro, del resto ci siamo proposti di fare un sequel. Un sequel che si intitolerà Errata Corrige. Così si intitolerà il nostro sequel. E se, come dire, il nostro ospite di questa puntata, Ricky Gianco, avrà piacere di partecipare, è estremamente benvenuto per grazie. Correggerci e redarguirci su tutti quelli che sono stati gli errori e le cantonate che io personalmente ho preso nella puntata su Biglino. Grazie per l'invito, grazie, sì, sì, sì. Allora, io, caro maestro Ricky Gianco, di cui ho appena scoperto il nome, in realtà, nonostante conoscessi per fama, ho preparato una canzone, così, ad hoc, sul momento, adatta... Venga, venga! Oddio! Quanta gente in questa bomba regia, oddio! Quante emozioni, quante emozioni. Ospiti su ospiti. Su ospiti. Su ospiti di ospiti. Intanto ricordiamo che chi ci volesse scrivere può farlo su direttawombat.vado.li oppure direttamente dal sito cliccando a caso. Allora, c'è questa canzone. Io mi ha segnato, francamente, un periodo lungo, lungo della mia vita. Io non so se voi la conoscete, spero per voi di... Sparacela. No. Così è l'occasione perché la possiate ascoltare. E torniamo subito col maestro Ricky Gianco, col maestro Tani, con la dottoressa di cui ora stiamo per annunciare l'esistenza. Fra poco su Lezioni Universali di Esistenza. Viva sempre Radio Wombat, viva! Le canne fanno morbida la pelle, a volte fanno prudere le ascelle, e ridi come non hai riso mai, e ridi ma il motivo non lo sai. Poi t'addormenti calmo e rilassato, e sogni come non hai mai sognato. Dimentica le benzodiazepine, le canne sono le meglio medicine. Passa, passa, ah, amico, chi lo prova lo sa, ma cogna. Passa, passa, ah, la prima canna non si scorda mai, la rolli male ma poi te la fai, la fissi con lo sguardo indifferente, la passi e patapum e te ti stende. Passa, passa, amico, chi non prova non sa, ma cogna. Passa, passa, volta c'era il Buddha Grass, era tutta spiritualità, ti spuntava il terzo occhio senza gli altri dubbi. Una volta c'era il Buddha Grass. Le canne non ammazzano nessuno, le canne fanno bene anche a digiuno, che tanto l'appetito viene poi, ma questo lo sappiamo solo noi, noi che ci piace vivere sereni, non lavorare basta come scemi. La ganja rende gli uomini più buoni, le canne sono meglio dei cannoni. Passa, passa, amico, chi non prova non sa, ma cogna. Passa, passa, una volta c'era il Buddha Grass, era tutta spiritualità, benissimo, io prendo subito la parola, me ne approprio. Vorrei citare un fatto molto particolare. Partendo da un postulato junghiano, che sicuramente Jung ha maturato all'interno del suo rapporto molto stretto e molto, come dire, prolifico con lo scienziato Pauli, il famoso fisico famoso per non mi ricordo assolutamente cosa. Ma però Pauli risuona, insomma, da qualche parte nel programma di terzo quarto superiore dovrebbe esserci. insomma, e praticamente... Ma perché stiamo dicendo tutto questo? Stiamo dicendo tutto questo perché Jung e Pauli hanno fatto una serie di ricerche che hanno portato appunto, e di scambi epistolari, che hanno portato poi Jung a... hanno portato Jung ad affermare, cioè che hanno portato Jung ad affermare il fatto che non esistono le coincidenze. È questo quello a cui volevamo giungere. Era questo quello che volevo giungere e stavo cercando un modo complicatissimo per arrivarci. Lo hai trovato, ma il punto è chiaro e va a segno. Le coincidenze non esistono. Cara dottoressa, lei ha un microfono, nel momento in cui volesse intervenire sappia che può usarlo. Nel frattempo, maestro Buddhagrass, è un onore averla qui con noi. Spero di riuscire a vincere la timidezza e a passare al tu nell'arco di poco, ma intanto grazie per la sua presenza. Mi sento unto. Io non mi sento il signore, ma non di meno... ti invito a condividere con noi quella che tu ritieni essere l'essenza dell'esistenza. In realtà di respiri ce ne vorrebbero 3000 prima di rispondere a una domanda del genere. Ah, io pensavo che avevi risposto. Poteva starci. Respirando, cioè, sì. Non è... Ok, scusa, era il primo dei 3000. Era il primo, ok. 2999 a seguire. Perché ogni esistenza inizia con un respiro. La concentro in una cosa semplice: esperienza. Vi chiedo, cari maestri, un argomento, un tema da cui affrontare tutto ciò di cui vorremmo e non riusciremo a soddisfarci oggi. Guarda, io vorrei ritornare sul concetto di sincronicità, ecco, del tempo, della realtà, delle esistenze, forse delle esperienze anche, perché no? E guarda caso... io e il maestro Ricky Gianco oggi abbiamo fatto la stessa esperienza in una parte, in una piccola parte, e questa cosa vi giuro che non era assolutamente preparata, non era assolutamente voluta in nessun modo, ma l'abbiamo scoperto qui adesso, nei 5 minuti prima che ci sono stati a questa diretta. È bellissimo, io vi prego di volerlo condividere con noi. Abbiamo praticamente visto gli stessi due video che abbiamo visto. Io oggi ho visto due video su YouTube. Io ho visto due video su YouTube oggi. Oh. E erano gli stessi. No. Il primo era lo stesso e il secondo pure. No. Wow, base. Ma e quali erano questi video? Allora, si trovano sul canale di Red Ronnie. E già questo fa capire tutta una serie di cose. Uno su il cui protagonista è niente proprio di meno che Lucio Dalla, ok, che fa praticamente a detta di Red Ronnie, ma in realtà è piuttosto verosimile quando dichiara una cosa del genere, una sorta di profezia, di previsione per il futuro, e diciamo si lancia anche in una serie di condivisioni di esperienze e di opinioni che ha su quella che era la realtà di allora, che in realtà si prestano benissimo alla critica e alla lettura della realtà odierna. Ma scusate, avevo il microfono spento. È raccontata da Red Ronnie come una... No, questa è detta da Lucio Dalla, con la voce di Lucio Dalla, che è registrato e sia audio che video. Stava facendo una conferenza in Sardegna, ecco, in quel caso. Grazie. E era una parte, un estratto, e quello che ha detto è sconvolgente, confortante sì, piuttosto confortante, sì? Direi, perché sottolinea quello che oggi va per la maggiore. È una maniera agghiacciante per la corrispondenza e la realtà con quelle che sono le istanze di oggi, con quella che è la nostra realtà effettivamente. Coincidenze? Io non credo. Per la prima volta da quando è iniziata questa trasmissione credo che non faccio parte delle voci che dicono questa frase, ed è bellissimo sentirla dire da, come dire, da maestro. Tu hai molti terzi. Più discepoli di quanti pensi di avere comunque. Ma i discepoli sono quelli che sono tra il mignolo e il medio? Sì. Ok. Sì, esattamente. È il discepolo quello. Esattamente, sì. Okay. Preciso, bravo. E l'altro video? L'altro video? Aspetta, devi dire la cosa confortante però prima, scusate, ora poi mi perdo. Sì. Il punto era la cosa confortante, qual è la cosa che... Che abbiamo visto lo stesso video. Ma il sapere... Ah no, del contenuto dicevi, ok? Il sapere. La cosa confortante. Fare luce. Tutta una serie di, come dire, anche... modi per raccogliere quelle che sono le informazioni giuste e bypassare quelle che sono quelle sbagliate. In questo senso Lucio Dalla in quel video si scaglia assolutamente contro quello che è il palinsesto della TV italiana di allora, quella che è la proposta dei vari canali, per esempio. Dice tutte queste trasmissioni, in particolar modo parlando, se non sbaglio, fa riferimento sulle trasmissioni musicali. Anche sì. Giusto, no? X-Factor, Grande Fratello. Grande Fratello, parla di questo tipo. Non è di... cambiato niente. Esatto. È solo peggiorato, uguale, tutto. È tutto uguale, parla di Amici di Maria De Filippi, parla del Grande Fratello, parla... di X Factor, sono tutti dei format che esistono ancora oggi, bene o male, e che lui dice sono quella roba che praticamente sarebbe come, lui usa proprio questa espressione, iniettarsi eroina negli occhi praticamente e tirarsi contro, spararsi contro una parete. Dice nel momento in cui ti addormenti sei fortunato, dice, in realtà, perché ti stai togliendo da, ti stai sottraendo a questa, come dire, a questa tortura, a questo supplizio, macello. E a questo lavaggio del cervello, esatto, questo macello. Cercheremo forse un video, una canzone adeguata di Lucio Dalla, ma prima vi domando, è la seconda, è il secondo video che avete visto invece? Cos'era? Io qui lascio la parola al... C'è un momento di pathos forse su... Malanga. È incredibile come il professore, dal momento, lo chiamo ormai così perché la puntata a lui dedicata così è intitolata, come il professore dal momento in cui lo abbiamo introdotto è ritornato continuamente con i suoi temi e la sua presenza all'interno di questa trasmissione. Cosa dicevi, maestro? Per la prima volta il cognome Malanga mi è sembrato un'onomatopea. Sentito dalle corde tropicale. Vocali di Ricky Giang, sì, Malanga. No, quasi. Tropicale. E che il viaggio abbia inizio. E mai cessi. Qui Collezioni Universali di Esistenza ne stiamo facendo molti. Adesso dove viaggiamo? Col professore o altrove? Stiamo col professore, il video che avete visto, i suoi contenuti, oppure ve le... Io del video ho solo visto pochi istanti. Ma? Poi ho fatto altro. Ah, possiamo accentrarli. Però erano quelli, pensavo no. No, non posso raccontare assolutamente niente. Ma probabilmente in quel... Se non della sua giacca e della sua camicia. Probabilmente in quel momento si è sintonizzato con la mia frequenza. Ah, sì, e quindi ha dovuto, certo, assolutamente vedere quel video, perché lo stavo facendo io o perché comunque eravamo interconnessi in sono qualche d'accordo. Modo. Sono poi d'accordo il anch'io. Fatto che l'abbia sentito o non sentito, quello è di secondaria importanza. Certo. Però, caro maestro Gianco, ma del sì. professore lei che ne pensa? Ne penso tante. È favoloso, fantastico. Da ascoltare, da condividere, da riascoltare e da ricondividere, perché i temi trattati da Malanga non sono facili. Non avrà mai più lo stesso suono per me. Maestro, per me, caro maestro, non c'è ombra di dubbio. Mentre invece degli argomenti che caro scusa maestro, io non voglio perché visto che avevi interrogato Ricky Gianco su Malanga, giustamente io vorrei un attimo addentrarmi su un punto in particolare che poi mi interessa anche per come dire per una sorta di deformazione professionale, la questione del 432 Hz. Sì. Non ne abbiamo trattato tanto in realtà sulla nella puntata in cui abbiamo dedicato al professore. Praticamente per niente, anzi, frequenze, esattamente, visto che viaggiamo anche su frequenze, magari potrebbe cambiamo frequenze, la nostra vita migliora. Ecco. O peggiora. Ma per noi profani di cosa stiamo parlando, allora, prima delle sentenze che giustamente avete da portare qui con voi? Stiamo parlando di un tipo, un modo, come dire, di percepire la realtà e di avere a che fare con la realtà che prima che passare attraverso la vista passa attraverso quelli che sono più i sensi dell'udito e del tatto, volendo. E qui cedo la parola al maestro Ricky Gianco che lo vedo... Ho la pelle d'oca. Questo è tatto. Mi sono perso nella pelle d'oca. Questo sì, certo, è tatto, ma nel senso il fatto che, come dire, ci sia una sorta di conoscenza basata sull'esperienza vibrazionale della realtà, e quindi percepibile attraverso l'udito e il tatto, che sia all'interno della storia antica, sembra una sorta, un dato di fatto in qualche modo, sembra una realtà, sembra essere stata una realtà. E questa stessa conoscenza che via via si accumulava e prosperava all'interno della storia antica, andando in avanti con gli anni, in qualche modo quei millenni più che altro si è persa. Velata, siamo stati velati. E il fatto che sia velata significa che lo squarcio del velo ci permetterebbe di riattingere. Torniamo lì. Bene, per lo squarcio del velo ci possiamo adoperare noi qui adesso? Sì. Come possiamo? Combattiamo la paura. Io sono pronto, sì. Tu maestro hai paura? No, nemmeno assolutamente. Io. E sconfiggiamo il male. E in questo questo senso, è più dura forse. In questo senso dovremmo porci... Fattezze di drago, magari. È solo paura il male, no? È la stessa cosa. Sputa fuoco. Non c'è paura, non c'è male. Io sono d'accordissimo in questo caso con Ricky Gianco, se devo dire la verità. Sì, è un po' una massima che faccio anche mia, quella del male non fare e paura non avere. Bella, sì. Perfetto. Oppure paura non avere e male non fare. Va benissimo. Girala. Ma tuttavia in questo bizzarro mondo capitalistico in cui le profonde conoscenze ci sono per l'appunto velate, come ci possiamo noi muovere a favore dell'essenza, dell'esistenza che io penso che dovremmo ripensare anche a quello che è il ruolo dei sacerdoti in qualche modo, in questo senso rivedere, rivalutare e ricollocare probabilmente all'interno della nostra società quello che è il ruolo e il potere che deleghiamo a questa classe sociale che ci mette i piedi in testa praticamente da 2500 anni, mi pare di aver capito. Di più. Ora basta. Quindi facciamo luce, laddove c'è oscurità portiamo luce con l'informazione. E le chitarre elettriche. Sì. Dottoressa, usi per favore gentilmente. Allora, dottoressa, forza. Abbiamo gentilmente. Una dottoressa come? Questa sera. Dottoressa, prego, come dice? Un'esortazione a diventare nuova classe dirigente. Un'esortazione altresì arrivata. Però attenzione, qua forse c'è un momento di attrito fra i maestri. Ma io non voglio essere la classe dirigente. Dice il che professor. È. Dice il professor. Dice il maestro. Ma perché il maestro Ricky Gianco è avanti, nel senso che è già celato. Ma di questo ne bisogna parlarne dopo. Sono azzurro. Sì. Celato. Dice la dottoressa che voleva essere una provocazione, io invece non ne faccio una questione di provocazione, anzi vorrei approfondire il tema, direi che lo faremo, facciamo così, ho un piano, attenzione. La dottoressa vuole dire, docente, dottoressa. Punto. Ora mettiamo adesso un pezzo, ci ritroviamo fra 3 minuti, vediamo un attimo di andare a fondo, è il momento in cui da ora in poi serietà e profondità. E si scava. e si scava. D'accordo. Molto bene, ho scelto il nostro sottofondo Sexy Planet per questo secondo blocco di trasmissione. Per chi si fosse messo in contatto io all'ascolto adesso, siamo su Lezioni Universali di Esistenza su Radio Wombat. Assieme a noi c'è il maestro Ottani, come sempre. Buonasera maestro. Buonasera. Abbiamo un grande maestro per quest'oggi con cui adesso andremo a fondo, un secondo grande maestro con cui andremo a fondo di molte questioni. Parliamo del maestro Ricky Gianco. Buonasera maestro. Buonasera a tutti. Però facciamolo lasciate che lo dica, abbiamo a sorpresa con noi, passava da qua e si è fermata un attimo con noi, anche la dottoressa Laura da Bilancino. Buonasera dottoressa. Buonasera, però al microfono. Buonasera, Teresa, io buonasera so che a non è tutti e tutte a tutte e tutti. Ah, e di solito nei suoi convegni del resto il microfono fisso, la prego gentilmente qua con noi in questa povera radio di adoperare quello strumento per parlare, grazie. Molto bene, parlavate nel momento in cui io non riuscivo a starvi dietro. Però parlavate tutti e tre di frequenze. È questa la parola che ritornava nel mentre della canzone e sulla quale ho capito che stiamo per andare a planare. Di quali vibrazioni, di quali frequenze stiamo parlando, maestri e dottoressa? Good vibrations. Sì, good vibes. Tante buone vibes per noi. E cerchiamo, come dire, in qualche modo di sciogliere quelle che sono le trame di questo tipo di esperienza e di questo tipo di conoscenza anche. Abbiamo sentito il discorso della frequenza 4.32, sì, abbiamo accennato un secondo, però possiamo inoltrarci ancora più a fondo in realtà, favore, su questa questione. Io vorrei il sostegno degli ospiti qui presenti, sì. Perché appunto non basto per dire cotante stronzate, no scherzo. Sulla frequenza giusta. Perché questo numero? Che numero è? Allora, il 4.32, in realtà io vorrei partire da un'affermazione di niente po' di meno che Giuseppe Verdi. In realtà Giuseppe Verdi, con quelle che sono le teorie New Age degli anni insomma 60, 70 del Novecento, o di quelle che saranno altri tipi di esperienze, di teorie che faranno propria questa cosa della frequenza 4.32, in realtà Giuseppe Verdi non ne sapeva niente, non c'aveva niente a che fare, anche perché era più o meno il 1870 probabilmente, quindi insomma intorno a quella data lì non c'era tutto questo. Però lui diceva questo, perché la questione del diapason, e qui se non tutti abbiamo il concetto di diapason voglio un attimo farlo presente, sì. Esiste una convenzione, come il sistema metrico decimale, all'interno del, come dire, del mondo culturale, sì, del mondo culturale musicale planetario direi, che prevede il fatto che il La a una certa ottava, all'interno di una certa ottava, si ha 440 Hz. In realtà l'orchestra che fa come riferimento in questo senso è la Berliner Filarmonica, praticamente dal nazismo in poi ha fatto riferimento per il diapason internazionale. All'epoca era 440, ad oggi la Berliner, che io sappia, accorda 442. Quindi là. È stato tarato? E si aggiusta via via, perché il diapason in realtà, e quindi questo fantomatico La, in realtà il diapason è anche proprio uno strumento, sì, lo riconoscete, sì, sì, ferro, sì, di cavallo, sì, con quella, ok. E, insomma, nel Rinascimento a Firenze, ecco, a Firenze nel Rinascimento nel 1600 il La era intorno al 415 Hz, per dirne una. Ma perché si alza via via, a quanto pare? Ma perché si alza. È un'espressione culturale, è un fenomeno culturale, in realtà. Se andiamo al di là della etnomusicologia e della musicologia, probabilmente è un fenomeno anche sostanziale, cioè fisico. Cioè. Fisico, non solo culturale, non dipende soltanto quindi dal limite mio fisico artigianale di un determinato strumento o delle mie corde vocali, ma probabilmente dipende anche da una sorta di costante universale, ma di questo ne parleremo dopo. Bene, perché per adesso stiamo dicendo, sì? Sì, io volevo fare riferimento solo a questa cosa del La, sì, appunto, sì, del diapason. Ecco, in questo senso Verdi diceva questa cosa qui. All'epoca di Verdi La non era a 4.40, il diapason non era La 4.40. Era sotto. Oscillava, ma soprattutto non c'era un grande riferimento unico, quindi ancora non c'era uniformità. Non c'era uniformità in questo senso, esatto, quindi ancora ci si cercava, come dire, di regolare a livello nazionale, prima ancora lo si faceva a livello regionale. Per farvi un'idea, se suonavi il flauto nel 1500 in Italia, se suonavi a Firenze, nel Duomo di Firenze, lo accordavi in un modo perché l'organo di quel Duomo aveva il La accordato in un modo. Se andavi a suonare nel Duomo di Milano, dovevi manovrare con le intersezioni del flauto per accordarlo in un altro modo, perché la del Duomo di Milano era in un altro modo. Okay. Ognuno vibra a modo suo. Ognuno vibrava a modo suo, anche perché non c'era tutta questa, come dire, cooperazione internazionale che c'è oggi, anche direi, no? E Verdi diceva questa cosa, appunto, ritorniamo a questa affermazione: se metto il diapason alla 4:32, i cantanti cantano meglio, o meglio, si affaticano meno. È armonia quella, e oggi non è permessa. Questo, oltre... Non è permessa o non è indagata? Non è conosciuta, quindi nessuno la cerca. Non cercandola smette di esistere, e l'armonia tra di noi va a farsi fottere. E a 432... 432 cantano meglio. Ora, dire che l'A è a 432 vuol dire che anche il Do è a un altro tot di hertz, che ora non riesco a calcolare, di conseguenza è una convenzione, capiamo bene. Bisogna andare a vedere quella che è, come dire, un'esperienza reale della cosa. Ma è un'intenzione a tenere le vibrazioni basse. Ah, e la paura è una vibrazione bassa. E con la bassa vibrazione ci si ammala. Ecco, queste sono tutta una serie di piccole pillole di attenzione. Esperienza reale sulla vibrazione, nel senso, attenzione. Se posso permettermi, maestro, prego. Io provo a dirla in questo senso. Esistono delle frequenze e delle vibrazioni che si accordano meglio con l'essere umano stesso e con quelle che sono tutte le sensazioni e le esperienze che noi leghiamo alla positività. Acqua, attenzione, acqua, dice acqua, il maestro. Acqua, fuocherello, no, è acqua, siamo fatti d'acqua, l'acqua. Allora, riflette le vibrazioni. Bene, molto bene, caro Gianco, caro proprio maestro Gianco, introduce un tema. Io precipito nel momento dell'acqua, di conseguenza, verso la nostra... Qual era la prima o seconda puntata, quando abbiamo fatto un esperimento? La memoria dell'acqua. Caro professor Gianco, caro maestro Gianco, abbiamo fatto l'esperimento della memoria dell'acqua. Sì. Abbiamo fondamentalmente insultato una bottiglia d'acqua con all'interno del riso e abbiamo elogiato un'altra bottiglia d'acqua che invece aveva lo stesso riso all'interno, stessa acqua e stessa bottiglia, sì. Soltanto subivano due trattamenti, d'amore e di disprezzo, odio, sì, l'altra. Lasciate riposare un mese, abbiamo verificato che effettivamente erano successe due reazioni incredibilmente diverse. Bene. Lo potete riascoltare nelle nostre scorse fantastiche, incredibilmente così diverse. È, così è. Abbiamo tentato questa forma di esperienza. Uè, quanta gente, buonasera, è un porto di mare questa buonasera. Regia, buonasera. Il buon Tuco in regia, Bricco Baldo. Buonasera a tutte e tutti. buonasera Bricco Baldo, buonasera. Che gioia. Qui non c'è più aria. Ma c'è tanto amore e tante vibrazioni. Cari, stavamo parlando delle vibrazioni. Voi sapete che alla... Il gruppo musicale, quello che sì, andava esatto, negli... ve lo ricordate? Negli primi anni 2000, tipo, le vibrazioni... C'erano anche a Sanremo, sì, se li ricordiamo benissimo. Esatto, Giulia... Non li conosco. Quella roba. Sono quelli che apparivano nel video di Spalman di... Sì, esattamente, grandissimo. Molti ferrati sulle vibrazioni. Ma chi sono? Sì, io li conosco molto bene, sono amici del mio coinquilino. Parlavamo di vibrazioni, voi sapevate che se in frequenze, se in toni il La e di conseguenza tutte le altre note a 432 Hz o megahertz, non lo so, Hertz secchi, i cantanti cantano meglio perché il tutto è più armonioso? Questo lo diceva Verdi. Lo diceva, secondo Verdi. Ma diciamolo anche noi. E lo diciamo anche noi. No, io non lo sapevo. Sei d'accordo però? Ma sì, se lo diceva Verdi poi. E poi lo diciamo anche noi. Per forza, dai. Dirlo diventa vero. È vero, perché è vero, in generale questo è vero. Dire una cosa... Ripeterla poi all'infinito. All'infinito. Anche una cazzata diventa vera. Bricobaldo dice mille volte su internet questa cosa funziona. Mentre però le vibrazioni, io però voglio dire una cosa, mi sembra di capire che il maestro Gianco sta ponendo una questione che forse il maestro Tani non condivide pienamente. O forse sta scansando volutamente, ma io qui vi voglio, forse vi do l'ultima occasione di confliggere o scansare. facciamo tutte forse e due. Il maestro Gianco ritiene che in generale le frequenze basse siano latrici di malessere e che le frequenze alte invece no, e tu, maestro Ottani, non condividi questa cosa. Allora, io su questo punto sono abbastanza d'accordo, soprattutto perché per quello che è il come dire, il complesso del corpo umano, ecco, e tutto il sistema che è in vibrazione anche, anche in maniere diverse, in modi diversi, tra di loro dico, questa cosa mi torna, nel senso che le vibrazioni che in teoria per quel, come dire, poco che ho potuto indagare all'interno dei miei studi, le vibrazioni che fanno parte del corpo umano, che compongono il corpo umano, l'essere umano in qualche modo, sono piuttosto alte. Quindi nel momento in cui l'essere umano interagisce con una vibrazione più bassa, tende a scompensare. Attenzione. A scompensarsi. E si adegua. E quindi si abbassa. Wow. E quindi si abbassa di conseguenza. Oh, al momento della base, aspetta. Ma e vale anche per l'acqua questa cosa? Perché stavo pensando mentre parlavate se magari... lo diceva il maestro Fiora, siamo fatti al 70%. E quindi non ridiamo. Quando dici acqua, azzardo dici un'ipotesi, anche azzardo un'ipotesi. Se noi andassimo a riascoltare la nostra puntata in cui da un lato portavamo amore, dall'altro odio verso queste bottiglie d'acqua, forse scopriremmo che avevamo delle frequenze in un caso basse e nell'altro alte... riascoltando le nostre, sì, pensa alla tua voce. Lo ponete, guardi, attenzione. Pensa alla tua voce, no? Quando stiamo svelando misteri su Radio Wombat comunque. Sì, pensa alla tua voce, sì. Quando inveisci contro una o contro una persona, contro un animale, o invece quando non so, in qualche maniera lo elogi, lo lodi, come abbiamo fatto in quei due casi diversi con le bottiglie, con il riso dentro. Mi viene in mente. Hai delle frequenze diverse all'interno della voce, no? Avete mai visto, online ci sono dei fantastici short video dove la sabbia viene posizionata su uno speaker e la frequenza dello speaker fa disegnare alla sabbia delle forme incredibili che si ritrovano nei fiocchi di neve. Esatto. E quello è il frattale. La frequenza è alla base di tutto e chi è di sopra lo sa. Io direi noi che siamo sotto l'abbiamo capito da poco, noi però. In questo senso la manifestazione visiva più simile alla frequenza acustica è, come diceva il maestro, proprio il frattale. Se vogliamo tradurre visivamente la isocronia che caratterizza una frequenza, è il frattale che ci dà il dipinto migliore. Sicuramente. Molto bene, un'altra domanda per voi. Forme, ma anche colori? Certo. Frequenze. Sono sempre frequenze i colori. Cioè? Che credi? I colori hanno temperature. Spettro. C'è uno spettro. Anche il Bontuco dietro annuisce, vedo. È chiaro, si possono calcolare in Kelvin, ma in questo senso... È l'energia. Esatto. L'energia elettrica si trasforma in calore. Lo dicono anche gli scienziati, come la dinamo. Non pseudo. Se pensate alla dinamo della bicicletta, pedalando forte, forte, forte, la luce si intensifica e raggiunge quasi il bianco, rallentando, tende sul rosso. Bellissimo. Bell'esempio. E quindi la frequenza è colore, calore, musica, dà la forma. L'acqua prende forma dalle frequenze. Io credo, credo che i napoletani la chiamano cazzimma. È legata a una delle parole che sono ritornate di più da quando abbiamo introdotto la figura del professore qui in Lezione Universale di Esistenza. L'energia, come la decliniamo, legata alle frequenze? Cioè, è una manifestazione di questa frequenza, perché chiaramente è tutto energia. Noi la vediamo quando si abbassa e le frequenze che vediamo noi sono limitate, ma la gamma di frequenze è illimitata. Certo, e l'energia è il risultato del pieno e del vuoto, perché te nella frequenza c'hai una sinusoide che va sia nel positivo che nel negativo. Bella altalena. Se tu c'hai solo sopra positivo o se c'hai solo sotto negativo, in realtà non ottieni energia, perché non essendoci il disequilibrio non c'hai contatto dei poli. Sono molto... Siamo noi questo, siamo noi, siamo noi esseri umani, fantastici. Sono solleticato dal fare un nome che forse in realtà non è il momento di fare, perché lo stiamo tenendo un po' in caldo per le prossime puntate. Io personalmente sto studiando al riguardo. Vorrei dire, ma Ighina, quindi, quando parla di ioni positivi e negativi, di atomo magnetico, di positivo e negativo, sole, terra, sta parlando di questo, di frequenze, sì. Maestro? Sì, sì, sì, sì. Di sì, maestri, scusate, non so. Essenzialmente, ma poi condividete, quindi parlo come un unicum, mi sembra che sì, sì, ma... fantastico. Certo, certo. Una frequenza sola. Approfondiremo, comunque la figura di Ghina che fa piovere sul Gran Premio di Imola, bellissimo personaggio anche lui, bellissimo. È un mago. A Mario gli è rimasto impresso per questa cosa, del Gran Premio di Imola in particolare. Non è male che fa piovere il sole sul Gran Premio di Imola e poi va da Maurizio Costanzo a dirlo. Vabbè, dai, certo. Ho fatto venire il sole. E ti immagina tutti quelli che erano nelle scuderie, come cazzo, quando hanno visto la cosa, già quello stronzo. Quanti accidenti. 8 grandi. Molto premi. Bello, molto bello. Approfondiremo. Allora, è il momento di un pezzaccio. Aspetta, prima domanda, attenzione. Dottoressa Laura Dalbilari. Dottoressa. Pezzaccio per noi e ci torniamo subito su Radio Bomba. Thank you. certe rotte in diagonale dentro la Via Lattea, seguimmo certe rotte in diagonale. Salto pirata nella radio pirata. Viva l'urlo dei Balcani. E dopo questo. E dopo questo accrocchio di frequenze che possiamo chiamare canzone. Sì, a proposito di frequenze, è stata un'improvvisata questa cosa, questo momento, perché è un porto di mare qua. Sono venute nuove persone, nuove anime a trovarci. E visite. Ci distraiamo facilmente, tutti sempre benvenuti, fisicamente o telepaticamente qui con noi su Radio Wombat. Nonché il nostro carissimo compagno Edoardo Rialti, narratore di mondi altri. È vero, cogliamo l'occasione per salutare e ci è passato a trovare Edoardo Rialti, che è traduttore, scrittore, docente di letterature comparate, eccetera, eccetera. Lui lo sarà a Firenze in un'iniziativa, anzi in due iniziative molto belle che ci saranno sabato 25 e domenica 26 marzo al Next Emerson all'interno di Claridade, un festival di letteratura reale, fantastica e resistente, il sabato sera e la domenica sera, due bellissime iniziative con Edoardo Rialti, Dario Briani, Francesca Matteoni, autori e autrici di Nazione Indiana. Vi invito a seguire il programma come sempre su lapunta.org, ma lasciamo queste terrestucoli questioni per ritrovare spazi alti, altri e alti. Universali. Universali, universali, così come sono le nostre mire qui su Lezioni per l'appunto universali di esistenza. E quindi eravamo sulle frequenze e su quelle che sono anche le differenze tra una frequenza e l'altra. E in questo senso stavamo, come dire, cercando di fare una sorta di distinguo, di fare una sorta di misurazione, in questo senso, delle frequenze e di quelle che possono essere quelle più dannose o più consone all'essere umano. A me sembra di capire che comunque entrambi i maestri condividete sul fatto che le frequenze alte significano altezza e le frequenze basse bassezza, per l'appunto. In generale sì. In generale sì. Così è. Così è. È logico, così è, sì. E dalle frequenze alte quindi ci arrivano le cose migliori? Ma in questo senso, per esempio, si può dire che una delle frequenze più basse che c'è, come dire, esistente, è quella proprio che è emessa dal pianeta Terra, che si aggira intorno ai 7-8 Hz, forse in aumento. Accidenti. Si sta alzando. Ma sapete questa cosa? E sapete anche gli altri pianeti? E lo sentiamo tutti. Ma tipo Marte, lo sapete se è più o meno... No, Marte io non lo so. Ignoro. A occhio, scommetteteci sopra. Beh, pensa di a più. Questo. Sì? Non ha l'atmosfera. E non solo, gli antichi conoscevano sin appunto dall'antichità l'armonia delle sfere, la cosiddetta armonia delle sfere, e quindi quelle che erano le differenze sia orbitali che vibrazionali dei vari pianeti. E anche organica, grazie allo spettro che emettevano. Lo spettro luminoso definiva il loro DNA, quindi la composizione organica. Ma a proposito quindi colori, di... sì. Frequenze. Di conoscenze ancestrali e moderne, vi sono oggi dei detentori, ancora oggi, delle persone che incarnano, insomma, questi uomini antichi che portavano con sé queste conoscenze che, a quanto mi dite, abbiamo perduto, insomma, negli ultimi anni, secoli? Vi sono oggi delle figure, degli individui, manifesti o no che siano, la società, che in qualche modo fanno la figura dei prosecutori di un'antica esperienza verso questo mondo moderno, o no? Io penso che ci siano e noi penso che, cioè, io penso che esistano su vari livelli, nel senso, ci sono persone che proseguono autonomamente questo tipo di esperienza e questo tipo di viaggio, come possiamo essere noi. E poi ci sono anche persone che si organizzano nel fare questo e che ereditano magari anche una conoscenza dal passato di questo tipo, di questa natura. E questi solitamente li chiamiamo massoni. E detengono le informazioni migliori, originali e non velate. Le hanno passate a noi velate. E dei veli spessissimi. E funzionali. Serviranno motoseghe per abbatterli. Stanno cascando perché con la vibrazione di Gaia che si alza, il loro gioco sta per finire. Ma si sta alzando in modo sufficientemente veloce oppure no? Perché loro non si riorganizzino e mantengano il potere nel nuovo livello in cui si andrà? Sono già crollati i vertici. Sono già crollati i vertici? I burattini insistono, ma non hanno più nessuna guida. Ah, attenzione! È un momento centrale dell'esistenza umana. Siamo liberi, ma non lo sappiamo. Molto bene, molto bene. Come facciamo a fare un passo in più rispetto a questa condizione di inconsapevolezza? Accendiamo la luce. Ora. Qui e ora, qui e ora accendiamo la luce. Bisogna far luce e l'informazione è luce. E la luce è un'alta vibrazione. Diamo dei consigli. Diamo ultra, dei consigli. Ultravioletto, sopra il viola. I migliori, se dovessimo dire... Allora, no, la prendo diversamente questa cosa. Dove troviamo oggi, in quali parole, di chi oggi troviamo le migliori verità? Ce l'ho. Sì. Sono i canalizzatori. Oh. Base. È una figura che non avevamo ancora introdotto, sono fierissimo che sia questo il momento di farlo. I canalizzatori, maestro Ricky Gianco. Sono coloro che captano, ascoltano, sentono vibrazioni alte che per noi non sono, non ci raggiungono. E come... noi siamo come delle radioline, tutti noi. E abbiamo una banda di frequenze che possiamo captare da sinistra a destra ed è limitatissima. I canalizzatori vanno oltre sulla hanno sinistra una e banda destra. Molto molto più ampia. Se va a sinistra e si abbassa, diciamo anche va in basso, hai contatti con il buio. Oh. I demoni. I mostri. Ma sono uomini, donne, persone viventi, esseri umani. Sono voglio nostri dire questi... fratelli. Sì. Hanno una concezione diversa di tutto perché captano cose che noi non captiamo. La loro banda di frequenze è molto più ampia. I canalizzatori di cui parlo sono quelli che captano le frequenze alte, messaggi di conforto per noi che stiamo attraversando momenti duri, dove questi veli stanno cascando e vediamo le cose per quello che sono. Perché vi sono dei canalizzatori che captano anche le frequenze basse? Sì, ma non li voglio ascoltare. Certo. Ma è una possibilità dell'essere umano la canalizzazione? Voglio dire, chiunque potenzialmente può essere canalizzato. Giuseppe Verdi lo era. Giuseppe Verdi lo era. Però non risponde alla mia domanda. Non risponde alla mia domanda, che era: ma chiunque in potenza lo può essere? Come i rabdomanti, per sì, dire. Forse sì. I rabdomanti no. Sì, i rabdomanti si dice che... Torno alla tua domanda, sì. Non siamo educati a farlo. E con un po' di allenamento potremmo anche noi, e senza paura, riuscirci. Siamo di grado inferiore. Loro sono come noi, ma hanno più esperienza. Ma e se ti domandassi com'è accaduto? Com'è accaduto? Perché sono nati in questo modo? Perché qualche tipo di esperienza ha portato loro... Più informazioni. Secondo te più informazioni? E sono anche nati un po' più liberi, forse, non lo so. Ma lo siamo nati tutti forse più liberi, con altre alte frequenze. Perché stiamo parlando del resto di una possibilità dell'essere umano che non pratichiamo ma che è in noi, corretto? Sì. Noi siamo velati, sì. Sì, Sì, è una possibilità che in noi, poi appunto come diceva il maestro, magari anche a chi non viene insegnato un particolare linguaggio, magari è già un po' predisposto, in qualche maniera ci si trova bene all'interno di quel linguaggio, è un particolare performer all'interno di quel linguaggio, magari questo può essere vero. Se invece fosse che uno, come dire, in qualche modo deve praticarlo e studiarlo prima di farlo suo, questa è un'altra possibilità. Io penso che all'interno di questo scambio, di questa esperienza, succede esattamente come all'interno dell'apprendimento di un qualsiasi tipo di linguaggio. C'è chi magari è un po' più portato, o forse magari è anche sbagliato dire un po' più portato, magari semplicemente c'ha delle fasi di apprendimento diverse da altri, ecco, e quindi magari un certo determinato input gli fa scaturire la giusta predisposizione, ecco, a quel tipo di linguaggio, magari quello. Sintonia. Entrare in sintonia. Ma chiunque canalizza divulga? Cioè un canalizzatore no. È... No. No. No, no. Non avrebbe ascolto, non avrebbe pubblico. Quelli che lo hanno, il pubblico, risuonano, non sono distorti in quello che dicono. Cioè le informazioni che arrivano sono storie, diciamo. Sì, una narrazione. Tornano con tante altre informazioni ascoltate in altri canali e quindi non sono solo storie. Per me, e parlo per me. Si celano o si rivelano? Si rivelano. Oggi poi... Con nomi, cognomi, fanno nomi, conferenze, cognomi, conferenze, apparizioni. Sì, ci sarebbe da fare tantissimo seguendo i vari canalizzatori in giro per il mondo. Beh, e dicono cose contraddittorie anche... le une con le altre. Ma no, no. È corale l'informazione. È corale, abbastanza corale. E arriva dagli angoli più remoti del pianeta, dall'Australia, Brasile, ne abbiamo anche noi qui in Italia, Francia, tanti. Quello è corale. Io non so se posso sono farvi in armonia farvi questa domanda, ma possiamo dire qualcosa, uno o due aspetti, uno o due argomenti portati dai canalizzatori che riteniamo essere utili a noi come specie umana per il futuro prossimo o remoto che sia? Ma qui dipende molto dalle orecchie di chi ascolta. Giusto, è molto soggettivo, vuol sì, dire l'utilità. Voglio dire che è molto soggettiva l'utilità e che soprattutto il contenuto del messaggio non può essere probabilmente da tutti percepito allo stesso modo, non solo per le ovvie differenze che ognuno ha con gli altri esseri, ma anche per una questione forse vibrazionale in qualche modo. Quindi chi è già un po' più su quel tipo di frequenze magari le sente in maniera diversa certe cose, ma questo si può tradurre in maniera molto, come dire, più terra terra, se vogliamo. Mi viene in mente il pipistrello che ha una capacità ascolto, diciamo udito, insomma ha dei radar al posto delle orecchie e si muove facendo rimbalzare il suono del suo contro gli oggetti. E lui ha quella capacità, è molto molto molto molto sviluppata, la nostra. Quindi in no. Questo senso non solo, non solo, come dire, recepire, ma recepire, trasmettere e riflettere anche, quindi quelli che possono essere i segnali che ti arrivano dall'esterno, oltre a quelli che emetti tu stesso. Farli tuoi se vuoi, insomma. Sento il bisogno di una domanda indietro. Sì. Quando parli di storie, cosa intendi? Come rappresentano ciò che dicono? Che vuol dire che... Ma una delle storie che poi si ripete nei vari canalizzatori è quella del cambiamento di Gaia. Gaia, parlato nella puntata. Sapete tutti come Solaris. Funziona il sistema solare, no? Certo. Il Sole è un proiettile che va... vaga nella galassia, si porta dietro tutti i suoi pianeti e che insomma seguono in questa forma elicoidale il Sole. Quindi viaggiando stiamo navigando in una zona della galassia che vibra in modo più alto rispetto a quella dove eravamo lasciata nel 2012. È dal 2012 che siamo entrati in Una nuova area della galassia dove la vibrazione da 3D sta passando a 5D. Gaia è pronta, noi no. Wow. Ma facciamo come i pipistrelli, apriamo le orecchie. Possiamo profetizzare un paio di cose, tipo quanto durerà e quali sconvolgimenti avverranno? È veramente incredibile, interessantissimo questa cosa. Storie. Potrebbe non succedere, potremmo stare in 3D tutti e vaffanculo. Quindi non percepire niente, schiantare. Ma la durata di questo passaggio vibrazionale sarà lunga o breve? Cioè è una fase che dura una ventina d'anni oppure tipo due millenni? Siamo all'epilogo. Ma della specie? Della fase. Ah! E della specie. Per no, aspetta, ora basta! No, però è il momento topico, stiamo per entrare in una nuova fase. Per un nuovo inizio, forse. Solo una domanda. Positiva rispetto all'attuale o negativa? Ma lo scegliamo noi. Meglio, alta. Andiamo. Ma come per la mongolfiera, per andare su bisogna sganciare la zavorra. Bisogna sganciare la zavorra, esatto. Bisogna essere più leggeri. E la Chi è zavorra? Boh, io. Sì. Tu, io, noi. Boh. Questi corpi. Questione di vibrazione, sa anche, vibrazione. Ma c'è il rischio di non riuscire a sganciare la zavorra e rimanere indietro nella fase vibrazionale in cui siamo incastrati senza che il sole vada oltre? C'è questo rischio, secondo me. C'è? Sì, però è più un ritardare che un effettivo annullare. Oppure magari forse più probabilmente qualcuno farà il salto, tra virgolette, prima di qualcun altro. Ah, ma saranno soltanto annunciatori, in qualche modo, profeti, non... Il cambiamento secondo avverrà me, come specie, come umanità, secondo no? Secondo me se avviene il cambiamento non come specie, come umanità, e quindi su dei singoli prima, quasi poi non c'hai più possibilità di interfacciarti. Con essi. Da uomo che non l'ha fatto il salto, penso io. Ma questa è una mera speculazione. Cioè te che rimani su questo lato energetico, diciamo, c'hai un po' meno possibilità. Forse dall'altro lato c'è più possibilità di comunicare. Ma ci saranno dei segnali che ci faranno rendere conto del passaggio di fase dall'attuale? Io penso che ci sono già questi segnali. Non li vediamo? Ma li possiamo percepire con, non so, il sesto, il settimo senso, a caso così. Stai sognando in questo periodo? In effetti devo ammettere che dopo la puntata sui sogni lucidi che abbiamo fatto la scorsa volta ho avuto due sogni incredibili. Devo rivelare questa cosa, sì. Dici. Allora, c'è stato un sogno in cui mi hanno sparato. Racconto soltanto questo perché sennò poi annoio. È finita che mi sparavano, stavano in opera con la macchina, uno sbirro mi sparava. Però io mi sono svegliato con questo colpo di... arma da fuoco e mi sono chiaramente svegliato e mi ricordo chiaramente quella scena, la manovra, l'hai vissuta veramente, me certo la ricordo senso. Ancora mi ricordo l'esperienza, cioè mi sono certo, e ne avevamo parlato poco dietro. Io ti invito a riflettere su questa cosa, non voglio fare il Freud della situazione, davvero non mi importa, ma chi cazzo ce li ha messi di sbirri nei sogni? e sparano Fesseroboni almeno. Chi? Cioè? Io, no? La risposta è io? La risposta è noi. Siamo noi i creatori. Noi, sì, come sono indietro, maestri, scusate. Senti, Laura dal bilancino, cosa vuoi dire? Di qualcosa con questo microfono, forza. Perché non si può mai morire nei sogni. È verissimo. Tu sei un onironauta, noi lo sappiamo, non ti riusciamo a stuzzicare a sufficienza da farti parlare, ma lo sappiamo molto bene che tu sui sogni hai da dire. Ti proveremo a coinvolgere nelle prossime puntate assieme a Grande Lago quando ritorneremo sull'argomento. Comunque nei sogni non si può mai morire, dice lei. Nemmeno a tavola si invecchia, dico io. Forse, forse neanche noi in realtà moriamo. Fino a prova contraria, in effetti. Beh, se tu... il nostro shell, il nostro corpo, cappotto, mezzo qui, poi in realtà... In questo senso vorrei avvallare la tesi del maestro e dire che, cioè, se banalmente provassimo a ribaltare la questione e quindi la realtà diventano i sogni del nostro mondo onirico in qualche modo, e diamo per buono il fatto che nei sogni non si può morire, in questo senso magari i sogni, che fra il resto, o comunque il mondo onirico nella quale bazzichiamo per gran parte della nostra esistenza, mi pare comunque, da quelli che sono gli studi anche, le cose, almeno si dice 3-2 ore a notte in qualche modo, lì non moriamo mai, e quindi quando effettivamente moriamo e lasciamo questo corpo e lasciamo questa esistenza, il nostro spirito, la nostra anima continuano, o forse entrambe in uno strano balletto, continuano a danzare, continuano, scusa, a sognare, volevo dire, e a danzare. Quello che viene meno è il corpo, quindi questo ribaltamento dei piani, questo ribaltamento della visione ci può far capire anche come questa nostra esperienza che chiamiamo coscienza forse non è il piatto forte. Wow. È solo un contorno. Molto bene, è il momento dell'ultimo pezzo. Ritorniamo perché vi chiedo, cari maestri, un momento ufologico finale. Gli ultimi 5 minuti di ufologia dopo il pezzo, prima dei saluti, su Lezioni Universali di Esistenza, su Radio Wombat. Kiss. momento ufologico. Ma non ho scelto la base di X-Files come sempre perché non di una specie aliena parliamo oggi, bensì in generale dei fenomeni di apparizione, soprattutto di quelli che hanno a che fare con le nuvole e i paesi del terzo mondo, così a cazzo. Sì. Chissà che viene fuori. C'è stato un incremento nell'ultimo periodo, si parla dell'ultimo decennio, di un fenomeno che si può ricondurre a tutta la schiera di apparizioni mariane, gli arcangeli, gli angeli, in qualche modo, che di cui anche la Bibbia fra il resto è piena, se ci pensate. Ne abbiamo bene. Parlato lungamente sulla puntata. Abbiamo parlato lungamente nella puntata. Esatto. Cavot. Esatto, questi profeti che insomma, e come dire, nel corso della storia questo tipo di apparizioni sono continuate fino ad arrivare a quello appunto che era già stato annunciato intorno un po' prima del 2010 come il Blue Project, se non sbaglio. Ah, wow. Blue Book Project. Ecco, questo infatti è molto assonante. Io lo so, Blue Book Project, che però non c'entra in realtà, o comunque non in maniera, come dire, diretta. In maniera indiretta di sicuro, ma in maniera diretta no, perché il Blue Book Project invece è quello che si rifà, come giustamente il maestro ci ricordava, ai fenomeni ufologici già della fine degli anni 50, e quindi è stata sì, in qualche modo Second World War. Esatto, è stata in qualche modo il Blue Book Project, è stata la risposta della CIA, dei servizi segreti statunitensi, coprire, a quel velare. Fenomeno. Velare. Sì, di base, come dire, la facciata era indaghiamo, l'effettiva poi divulgazione cosa non c'è stata, e quindi è stata un velare, come diceva giustamente il maestro. Ma se invece pensiamo al Blue Project, in questo senso si parlava proprio di una serie di fenomeni olografici studiati a tavolino, e quindi apparizioni pilotate e, come dire, programmabili tra le nuvole nel cielo. Ma finte. Finte. O che servivano a terrorizzare l'umanità. Che cosa vuol dire finte, abbindolare. Però, Mario? Abbindolare o terrorizzare. Cioè, qual era lo scopo? Ma che cosa vuol dire finte, però? Scusa. Non terrorizzare. Se si scende uno e ti spara, è vero. Se no, c'è però aspetta, ma la televisione, ciò che proietta è finto o è vero? Wow. Base. Non lo so. Cioè, però secondo è me è diverso tra un ologramma e un tizio vero. No, sì, ok, però di mezzo ne passa un sacco. Ci sono i media, no? Ci sono. Sì. Ecco, tu allora le voci che sentiamo attraverso la radio. Ah, va bene, ma perché lo scopo quindi era quello di provocare una reazione. Sicuramente. Una forma di isteria collettiva. Una idealmente forma di isteria collettiva. Sorpresa. Per poter applicare più stringente repressione, maggiore controllo, eccetera, eccetera. E per far vibrare in maniera sbagliata e più bassa l'essere umano, che se segue la superstizione e la religione più becera, il dogma, altri veli su veli, e vibra male, vibra basso. Allora, cari maestri, io vi voglio fare, no, beh, non è il momento, inconsapevole, ho una domanda, una mia, una non mia. Quella non mia me la tengo per la prossima puntata perché apre un argomento. Quindi me la tengo, fra l'altro è registrata, quindi ve la faccio sentire poi. Sì. Diciamo che questa qua invece, volevo dire intanto che mi è venuto in mente che il cantante, come si chiama, Travis Barker, quello di Blink 182, sì, come ci raccontavi maestro, è un grande donatore di soldi al MUFON, di cui abbiamo parlato, e che, no, Tom DeLonge, come si chiama? Non me lo ricordo. Il cantante? Sì, cioè in realtà l'ho letto poco fa. Comunque sì, tipo spendono un sacco di tempo nel parlare degli UFO, questa canzone Alien Exist che abbiamo visto prima, e a seguito di un rivelata incontro con una vicella, insomma. C'è stata un'esperienza da parte. C'è stata un'esperienza, sì, da sì, parte. Sì. Magari ne parleremo anche di qualche caso di adduzione come. Assolutamente, io infatti volevo fare una domanda al nostro maestro, se sì, infatti, visto che è qui ospite. Ha esperienze di adduzioni, come siamo messi? Male. Una risposta sibillina, maestro Tani, però questa è stata, diciamo, come la domanda. Male è una risposta sibillina. Nei sogni si incontrano esseri strani? Maestro, io mi ricordo di quando tu ci dicesti che i sogni forse non sono sogni. Forse no. Forse nei sogni ci piace perderci, forse i sogni sono il piatto forte, come si diceva prima. Forse in realtà, come in realtà sotto sotto, e questo è il pensiero di Mario, io ne sono sicuro, non servono a un cazzo. No. Non confesso, ma per chi vuole è confesso. Anche così. Io penso che ognuno di noi è pronto in momenti diversi, come delle pietanze squisite, ottimamente cucinate, o come una sorta di germoglio, qualcosa che cresce in qualche modo. Crescere in vibrazione e in frequenza, io penso che non sia soltanto una necessità, ma sia l'unico modo per sfangarla. Che profondità. Io non è il momento, non è il momento per le mie basse domande, me le tengo tutte per le prossime volte. Vi formulo invece, vi pongo, cari maestri, un'ultima domanda, molto generica ma allo stesso tempo importante. Un contributo che volete lasciare in una frase, in una ultima riflessione a chi ci ascolta per questa puntata. Respirate consapevolmente nel plesso solare. Io dopo respirate consapevolmente, cioè sinceramente è una delle cose più belle che abbia mai sentito, credo. Vorrei fare tipo il corrispettivo dell'immagine sui pacchetti di sigarette, no? Quindi fumate responsabilmente, bevete responsabilmente, e io sono l'immagine, ok, di un'auto schiantata sul guardrail in questo momento. Prima di salutare e ringraziare il maestro Ottani, ma soprattutto il grande maestro Ricky Gianco oggi con noi, dottoressa Laura Dal Bilancino, un'ultima parola per lei in conclusione di questa gloriosa puntata. Sto respirando. Io ho una domanda. Sì. Ma Bilancino è il lago? Sì, è Laura Dal Bilancino. È tutto suo. Come Leonardo da Vinci. Sì, cioè, esatto. Non volevo... Consiglio a tutti di visitarlo. Vinci o Bilancino? Bilancino, ovviamente. È il suo. Questa era Lezioni Universali di Esistenza. Grazie maestro Ottani, grazie Laura Dal Bilancino, grazie maestro Ricky Gianco e anche a tutti gli ospiti che a un certo punto a caso sono passati. Grazie a tutti. Ci risentiamo fra due mercoledì, sempre qui in diretta su Radio Wombat. Se avete delle domande matte da formularci o altro, potete farlo scrivendoci su postawombat@insiberia.net. Non è di sicuro l'ultima puntata che il maestro Ricky Gianco è qui con noi. Wow. Grazie a tutti. Don't worry, continue your program. Oh.